Allora, faccio un braccio, dobbiamo fare un cammino che facciamo un braccio. Binario 5, binario 10, binario 10, copiate Antonio K. Che è avanti? Hola chicos. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Che è avanti? Ciao Antu, buongiorno. Buongiorno a canta Natoli. Ui Zanca. Mare di Vlazi Zanca. Non è che mi. Ieri mi sono vaccinato. Ho fatto tutte e due le vaccinazioni là. L'ubrato da Ciccardo? Negativo, non mi ha fatto nulla. Ma che un bel... Non vuole niente di caro brazzo, me. Ma deve essere io, penso, da chissà chi ti rubati, boh. Infermiera? A me, quando me l'ha fatto la dottoressa, mi ha Ciccardo. Che mi avevo fatto il vaccino anti-influenzale, ma pigliato da posta e mi ha fatto il vaccino, ma Ciccardo voleva far rire. Invece questo qui, tutti e due non mi hanno fatto nulla. Capo. Se buon vino dentro. E cosa ne so buio? Hai fatto un contratto con i Giussinchi di buon vino di Giusso. Cannonau di sorso. Capo, e cosa ne so buio? Adesso lo devo fare anch'io, lo devo fare, siamo razzuti. Chi c'è che non mi può chiamare? Dai, che non ti passi nulla, cosa devi fare? Non mi ha fatto niente a me. Ciappa, non vuoi niente la cicada a me. Ma... Oh, prova se ti faccia male un po' il braccio, e boh. Ma proprio se ti può fare un disgraziato. Già ve lo dico, mi dice, non mi va a di codo nei capiotto, vi dico. Qua, manco là che ho sentito io. Ti sto dicendo, una mano usanza va via, chissà. E rimane. So cucare, se non me l'abbia fatto un vagaetto. Una signorina era e me l'ha fatta, ma neanche a mia moglie gli ha fatto nulla, perché l'abbiamo fatto lo stesso giorno e ieri è toccato lo stesso giorno, lo stesso, siamo andati tutti e due. Se l'abbia fatto male, che a mia moglie si l'avevo detto. Vuol dire che è capace, vuol dire. Chi c'ha una ciappella che è bucarotto? Me lo posso avere, io c'ho la goccia. Capa, allora in chi vive? Mi sono a casa d'Oglia. Ho detto, tu prenotato chi sei? Il 21 di luglio ce l'ho. Quando? Il primo luglio? Il 21 di luglio. Non si è capito. Il primo luglio lo devi fare. Il 21 di luglio. Ah, 21, ho capito adesso. Perché se era il primo dovevo andarci pure io per portare due persone lì a farsi il vaccino. Il 22 lo deve fare Lello. Oh. Il richiamo, sì. Capa. Un poco di mente, non si sa mai che mi c'è bideggiani che ti ma che gardena. Oh signore, il primo devi fare, così è. Capa. Speriamo che ti facciano quello che hanno fatto a me, il Pfizer. Lo Pfizer? Non lo so. Io solo mi auguro che non mi facciano male, dici. Infatti, perché se ti dà fastidio il braccio dice che è un dolore forte, cazzo. Ma dura un giorno. E ti dà fastidio, ma tu devi travagliare. Aspetta. Non è così, no, concetto. Cappa. Però mi ufficiale non mi porti animali. Natalì, meglio fare la modulazione. E già va bene, Antù. E ci vuoi dire una cosa? Aspetta un attimo, Antù. Ora, ora. Antù, puoi andare in quel canale di servizio? Ehi, io ci sono. Ma non ti ho sentito. Nel canale di servizio. Ehi. Vabbè, aspetta un attimo, va, che ti faccio una bassa. Ehi, ok. La segreteria mi risponde. Ehi, vai adesso, vai, vai. Stasera c'è la partita, Antù. Antonio, ci sei? Voilà. Hola, chicos. Non va andato mai a travagliare, è pure di Vinacolo. Ehi, sta lì. So bene di questi canzoni. Lo so. Gabba, gabba. Belle quelle canzoni. Belle, belle, belle proprio. La cantano sempre vicino a casa tua. Anto, tu stavi chiamando, vero, che non ero qua. No, negativo. Oh, signore. Ero in cucina, che sono andato a fare acqua anche io. Cappa, cappa. Sto a passeggiare. Oh, ya. Ecco qua, sta a posto. Devo vendere una cosa, lo vendi. E a chiedi muto muto e barendi, così è. No, mi stavo mettendo una frequenza, mi stavo mettendo. Già ho capito. Cappa. Chi è avanti? Chi è che sta chiamando? Avanti! Oggi non cuciniamo nemmeno noi. Ci abbiamo, cavolo, un peccato, se no toccava un pasto in tutto. Ho preso il salame e... come ti si chiama? C'è quel filato dall'arborea. Facciamo le spianate e mangiamo così oggi. Sei Antù. Oh, ya, ya. Natalia, avanti. Cos'è Antù? Sono qua. Sono dovuto andare in cucina. Ti stavo dicendo, dimmi. Ho pigliato, quante dite? Ieri, per andare al mare, il salame era puntina. Fanno una pazzina. Come ti dici? Detto che abbascio. Fanno una pazzina, se la mangiamo. Se la mangiamo a pranzo. Infatti. Cappa, cappa. E noi rimaniamo così oggi perché è molto, molto meglio, perché cavolo. La giornata non è tanto per la quale, mi stava dicendo mia moglie. Io non sono uscito stamattina. Capo, c'è stato un break, c'è stato, avanti. Capo, che ti riceviamo Reggio Calabria. Avanti. Buongiorno, dove lo modulate? Cap, Sassari e tu di Reggio Calabria. Un po' va e viene, va, ti faccio Natalino, ti faccio anche dalle mie parti, avanti Natalino. Ciao l'amico di Reggio Calabria, non so se mi ascolti perché sono basso basso di radio e di va. Ho questo apparato omologato e quindi non so se arrivo dalle tue parti. Avanti ancora a te l'amico di Reggio Calabria, qui siamo nel nord della Sardegna, la città di Sassari, ok? L'hai copiato? Natali? C'avevo lo squelce, mi ha sbloccato lo squelce e poi si è tornato a chiudere e non l'ho ascoltato tutto il passaggio. Capito? Se puoi ripetere tu Anto cosa ha detto? Ti ha detto il nome, ti ha detto, adesso non mi ricordo. Com'era il nome? Capa Domenico da Reggio Calabria. Capa. Adesso cominciamo a migliorare le prestazioni, Domenico. Tra un po' passo l'altro apparecchio. Attenzione, Domenico da Reggio Calabria, copia Antonio che fa chiamata, avanti. Ciao Antonio, io sono Santa, Salvatore sulla provincia di Catania, saluti. Cappa, saluti. Adesso sono molto meglio, Vediamo un po', dai, di farmi sentire un pochettino, diamo le vitamine. Ciao Antonio, Isola Santa, Salvatore sulla provincia di Catania, saluta, buona domenica a tua famiglia, un forte abbraccio a tutti gli amici dell'Isola Santa, cambio. Cappa, c'era anche l'altro amico che mi stava chiamando, avanti, da Reggio Calabria, avanti. Cappa Domenico, adesso ti arriva molto meglio, vero? Guardi a fondo scala, anche te Natali. Ehi, anch'io gli dovrei arrivare meglio. Attenzione l'amico di Reggio Calabria, come ti arrivo adesso lì? Cappa, dai, c'è anche l'altro amico della Sicilia, avanti. Sì, ciao Antonio, buona domenica a tua famiglia, una settimana di mano a tutti gli amici dell'Isola Sarda, Salvatore sulla provincia di Catania saluta, mi fa un bel segnale di 9 nella Radio Super 5, anche l'amico Tony mi fa un segnale di 9 nella Radio Super 5, però Tony esce più pulito come radio, tu esci un pochettino cupa la radio, Tony esce più pulito, avanti per te Antonio, cambio. Cappa, dai, va bene, dai, io non lo so, adesso in quest'ultimo passaggio mi sei arrivato 9.20 e Radio 5 mi sei arrivato, io non so come arrivo in Sicilia adesso sto usando tutta la potenza, avanti. Ma lo stesso segnale mi fai tu, però la modulazione è troppo cupa, è troppo carica. Fai girare per l'amico Tony che esce più pulito, Tony. Grazie. Il segnale Tony è più basso, però la radio è più pulita. Avanti per te Tony, se mi ascolti buongiorno e buona domenica. L'amico della Sicilia, ascolti Natalino Alfa 1 dalla città di Sassari, mi darai un controllo a vedere come arrivo lì in Sicilia, cappa. Scusa Natalino, io ti ho chiamato Tony, mi fai Santiago 9 o Sibante, da 9 più, Radio Super 5, però la radio è telefonica, tipo che sei dentro casa mia. A me Antonio mi fa 9 più 30, però la radio è troppo cupa, Antonio, quella tua è più pulita. Questo qui è il microfono di Tina, capito? È un Turner più 3 questo qui. E forse ha la radio migliore per quello, capito? È chiara, tutti mi dicono che è molto chiara come radio. Guarda a vedere se ho migliorato. Più 4, la modulazione è più pulita. Va bene, dai, signore. Vai, Antonio. Cappa, adesso ho aumentato un pochettino la radio, com'è? È più bella, più pulita. Più bassino vorrei segnare, però la radio è più pulita. Ok, dai, io non voglio disturbare perché vedo un quartiere locale. Salutatemi a Gigi Vulcano, Salvatore Spesso Signore, provincia Catania, saluta. Salutatemi a tutti gli amici in Sardegna e mi saluta anche Gigi Vulcano. Salvatore, saluta l'abbraccio. Buona domenica. se benedice appaggiamo le mani. Cappa cappa, adesso mi sei arrivato a fondo scala, mi sei arrivato a fondo scala, mamma mia, ma quanto stai andando? Io quanto vado? Te lo dico subito, non sono di sesta macchia, sono di sesta macchia, vado sui 250, perché tutto male mi dà fa 300 watt, perché ci mette tutti i watt, Cappa cappa, dai! E io avevo una roba del genere, minchia, ma adesso si è arrivato, si è arrivato fortissimo, forte forte forte proprio. Pappa, vedi adesso com'è, sono 400 watt puliti puliti, ma calcola che questo è un apparato originale, perché se ci metto l'altro apparato ti faccio di più, questo è un apparato originale, non c'è nemmeno il doppio modulatore, questo è originale come l'ha fatto la casa, è un AC5005 come CRC6009, antenna nasile come lineare, c'è un B750, 4 finali, che mi dà 400 watt puliti puliti. Capo, adesso stai toccato il più del più 30 ora. Ora hai toccato il più del più 30, io invece sono con la Ringo M, sono. Vai Natalini, cambio. Natalino, Capo, vai. Chi è che vuole chiamare? Avanti! C'era qualche altro amico, c'è, avanti! Mamma mia, che prepotenza, Ha aumentato ancora, Cristo! Cappa, dai! Io ti sento abbastanza bene! Ora sta dando tutto il suo splendore! Avanti, grandi amici! Avanti, avanti! Anche tu sei arrivi benissimo, cioè veramente la modulazione è ottima! Anche dai, ti saluto, grazie per questo, ti confermo, il sistema forse anche troppo. Cappa, qua ci ha rovinato la serata, stava piovendo sabato in Sardegna, Ciao Sardegna, dalla Sicilia. Cappa, avanti. Natalino, ci sei? Sono impegnato anche tu, che sto mettendo la tavola a posto, dai, che fra un po' lo mangiamo. Dai, ti saluto e ci sentiamo alle prossime. Cappa cappa Natalì, ci sentiamo. Mamma mia. Minchia. Cappa cappa, avanti, amici della Sicilia, avanti. Attenzione Sicilia, copiera Sardegna che fa chiamata, avanti, cappa. Ora attenzione, Sicilia tutta. Avanti Siracusa, avanti. Attenzione Siracusa, avanti, copia Antonio della Sardegna che fa chiamata, avanti. Ciao Antonio, salutoni, qui Valentino. Cappa, salutoni Valentino. Più segnale di 920 e Radio 5 qui in Sardegna, città Sassari. Addirittura. Grazie mille, qua arrivi bene, ti ascolto, un segnale di 5, una radio di 5, tutto Roger. Cappa cappa, poi dipende come gira, avanti a te Valentino. Anche qua, ma solo che si è messo la giornata male, si è messo, va andare al mare invece tocca fare a casa. Cappa dai, vi saluto tutti, vi saluto dai, ce la risentiamo. Ciao Antonio, piacere di averti ascoltato, qui Valentino Zitti Turbo, ti saluto e ti mando i miei 73 più 51, alla prossima. Cappa, ciao, ci sentiamo.